Letture di Radio 24. È ancora vivo il ricordo della grande manifestazione di Parigi dello scorso 11 gennaio, quando all'indomani della strage alla redazione di Charlie Hebdo, 2 milioni di persone erano scese in piazza per dimostrare di non aver paura del terrorismo islamico. Un po' meno coraggio hanno avuto le autorità di una cittadina della Germania, dove la locale parata di Carnevale è stata annullata all'ultimo momento per il timore che scherzi e maschere avrebbero potuto urtare la sensibilità dei terroristi islamici. Un triste esempio di censura preventiva nel periodo dell'anno che in teoria dovrebbe essere il più allegro. Il sindaco di Braunschweig domenica scorsa diceva: «È stata una giornata triste per la nostra città e una giornata triste per la nostra società democratica. È successo che quella che doveva essere una domenica di festa di carnevale, gioiosa, ironica, forse irriverente, è stata all'improvviso trasformata in una grigia e banale vittoria dell'estremismo violento, intollerante, ignorante. Il corteo di maschere, costumi e bande doveva iniziare a fine mattinata. 4.000 maschere a sfilare e ai lati migliaia di persone, 250.000 gli anni scorsi. Un'ora e mezza prima della partenza, quando già dai treni erano scesi centinaia di partecipanti, la festa è stata annullata. C'era la minaccia concreta di un attacco con un retroterra islamista, hanno detto le autorità. Il carnevale di Braunschweig, città a una 60 di chilometri da Hannover, è uno dei più importanti nel nord della Germania. La polizia non ha detto se la minaccia arrivasse da individui isolati o da organizzazioni e non ha nemmeno rivelato quali fossero le fonti che l'hanno allertata. Il ministro degli interni ha però ribadito che il livello di minaccia terroristica in Germania rimane alto. Fattualmente, hanno detto le autorità, non ci sarebbe un legame tra la decisione di Braunschweig e gli attacchi di Copenaghen di sabato sera. Dal punto di vista politico e ideologico, però, si tratta della stessa aggressione alla libertà di espressione, alla democrazia e alla cultura dell'Occidente, nel caso del carnevale, quella di origine cattolica e greco-romana. Nella loro attività terroristica, gli islamisti moderni si caratterizzano per non colpire a caso, ma per la ricerca di obiettivi ideologicamente significativi, come si è visto con gli attacchi a Charlie Hebdo a Parigi, alle sinagoghe e alla conferenza di Copenaghen di sabato. Ed è evidente che il carnevale lo ritengano insopportabile, probabilmente incomprensibile, in una visione angusta dell'esistenza. Non solo l'idea di una festa terrena la trovano fuori dalla loro visione lugubre del vivere. Il fatto che si tratti di una festa giocosa, dove vincono la fantasia e il disordine sul canone, la vitalità come lato dialettico della morte, li sconvolge. Un attentato ideologico religioso contro il carnevale è, per alcuni versi, un passo ulteriore rispetto a quelli del mese scorso, dove gli obiettivi erano persone fisiche ritenute avversarie e da punire. In questo caso, l'attacco era rivolto a un simbolo culturale di matrice profondamente europea e occidentale, un attacco ai valori. Certe volte, al terrorismo islamista basta la minaccia per raggiungere la vittoria. Triste, come dice il sindaco. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Danilo Taino, Germania, la sconfitta triste della parata di Carnevale, dal Corriere della Sera, del 16 febbraio. Letture di Radio 24. Le medicine più costose sono più efficaci nella cura del dolore, ma è solo questione di marketing, come rivela uno studio realizzato all'Università di Harvard. Nel 2008, Dan Ariely, attualmente professore di psicologia e comportamento economico alla Duke University, è stato insignito del premio Ig Nobel per la medicina per l'articolo Aspetti commerciali del placebo ed efficacia terapeutica, pubblicato sul Journal of the American Medical Association. Detto che l'Ig Nobel è un premio canzonatorio messo in palio ogni anno dalla Harvard University per le ricerche più bizzarre, in realtà il lavoro di Ariely e colleghi era terribilmente serio. Nello studio, i partecipanti a un test sull'efficacia di un nuovo farmaco analgesico appena approvato dalla Food and Drug Administration erano divisi in due gruppi. Al primo gruppo veniva somministrato un placebo da $2,50 a dose. Al secondo veniva dato lo stesso farmaco, ma era presentato come una promozione a soli 10 centesimi. I partecipanti erano poi sottoposti a una serie di scosse elettriche, in seguito alle quali erano invitati a quantificare il dolore percepito. Risultato? L'85% di coloro che avevano ricevuto la pillola costosa ha certificato una riduzione del dolore, contro il 61% di quelli che avevano avuto la pillola economica. Nelle sue considerazioni a margine dell'esperimento, Arieli osservava che il prezzo di un prodotto determina la nostra percezione del suo valore. E questo vale persino per l'efficacia di un farmaco che, in verità, non era nemmeno un vero farmaco. Ma è così anche per il marchio, l'imballaggio e altre variabili che possono influenzare, accentuandolo o riducendolo, l'effetto placebo. Tanto basta per capire l'efficacia subdola del marketing sulla nostra mente. Tanto che negli ultimi anni si sono intensificate le ricerche nel settore del cosiddetto neuromarketing, che studia i processi decisionali di acquisto anche con l'uso delle tecniche di imaging cerebrale. Sconti, promozioni, offerte speciali, messaggi pubblicitari più o meno espliciti e persino la musica che viene diffusa in un negozio sono tutti elementi che condizionano, a volte in modo decisivo, la nostra percezione. Ecco, la musica, per esempio, che potrebbe sembrare il più innocuo dei fattori. Una recente ricerca della SACEM, la società francese che riunisce editori e autori musicali, ha rivelato che un negozio senza musica è valutato negativamente dai clienti. Lo percepiscono gelido, senza anima, privo di vita, triste, vuoto, strano, sgradevole, sbiadito, freddo e monotono. Certo, quella della SACEM potrebbe sembrare una ricerca in pieno conflitto di interessi, ma ha il conforto di altri studi, in uno dei quali si è dimostrato che il silenzio in un negozio si traduce in una riduzione del giro d'affari del 28%. Insomma, i fattori che influenzano la nostra propensione all'acquisto sono davvero tanti e la scienza sta cominciando a fare luce sui meccanismi che fanno leva sul nostro inconscio. Proprio perché sono inconsci, sarà difficile tenerli a bada, ma di sicuro è meglio conoscerli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Cattaneo, La subdola efficacia del marketing sulla nostra mente, dal numero di febbraio del mensile Mente e Cervello. Nel 1978, molti anni prima che in televisione arrivassero i reality show, il comico Albert Brooks aveva girato il film Real Life, dove raccontava di una famiglia scelta dopo una lunga selezione, i cui comportamenti venivano seguiti dalle telecamere in ogni momento della giornata. Molti anni dopo, il film The Truman Show raccontava cosa avrebbe potuto succedere se il reality avesse potuto spingersi fino all'estremo, sostituendosi alla vita stessa. Oggi, questa sensazione di essere costantemente spiati la si può provare invece grazie alle nuove app che permettono di trasmettere in diretta spezzoni della propria vita agli amici. L'app più significativa si chiama Air, un social network in cui si condividono spezzoni di vita in diretta streaming. Un utente inizia le trasmissioni e tutti i suoi follower su Twitter sono avvertiti che la diretta è iniziata. Loro possono mettere like e commentare, ma il punto è soprattutto guardare la vita di qualcun altro che scorre sugli schermi. La bacheca di Air, quando è abbastanza popolata, è una specie di Truman Show con più protagonisti. Puoi vedere cosa sta accadendo a una festa a cui non sei potuto andare, cosa sta facendo il tuo amico al mare o la tua ragazza appena sveglia. E sapere che lo stanno facendo in quel momento, in diretta, cambia la prospettiva con cui si guardano i social. Quando la diretta finisce, del video non rimane traccia. Mettere insieme due concetti collaudati, quello dello streaming in diretta e quello del social network, per farne un social tutto nuovo, è un'idea notevole, che porta alle estreme conseguenze molte delle tendenze digitali di questi anni e potrebbe davvero diventare mainstream. Le app come Air prendono da Facebook la socialità, da YouTube la speranza di diventare una star seguita da milioni di persone, da Snapchat la transitorietà e vi aggiungono un livello di spontaneità che ancora nessuno è riuscito a raggiungere. Potrebbe essere un azzardo, potrebbe essere che non siamo pronti a un'invasione così pesante nelle nostre vite. Ma l'asticella di cosa è accettabile in termini di privacy in questi anni si è alzata enormemente. E oggi anche il Truman Show non ci sembra poi così scandaloso. E quello che avete ascoltato era l'articolo «E se il futuro dei social network fosse The Truman Show?» dal Foglio del 18 febbraio. Il futuro della rete si chiama Internet of Things, ovvero un'interconnessione tra ogni oggetto della nostra vita quotidiana che, grazie alla tecnologia, diventa in grado di raccogliere informazioni e comunicare sia con il proprio interno che con il mondo esterno. Si calcola che entro il 2020 saranno oltre 26 miliardi i dispositivi interconnessi. In questo tipo di rete è però fondamentale che l'attività di acquisizione e aggregazione dei dati avvenga in modo trasparente e che i diversi produttori possano partecipare sullo stesso piano alla creazione di valore, commenta David Orban in uno speciale che la rivista Formiche dedica all'Internet of Things. Con l'aumentare rapido del numero di oggetti attorno a noi che sono in grado di comunicare, è fondamentale che questi non dipendano dalle nostre decisioni per continuare a operare, altrimenti ci affogherebbero con le loro richieste costanti. I nodi che compongono l'internet degli oggetti devono essere autonomi e decidere da sé che il 99% dei dati che acquisiscono può essere tranquillamente buttato via. Quell'1% che viene tenuto può essere aggregato e correlato con le corrispondenti parti di dati acquisiti da altri nodi e avvertirci di cosa sta accadendo solo quando è veramente importante. L'attività di acquisizione, elaborazione, aggregazione dei dati, soprattutto se decentralizzata, deve poter essere fatta in modo trasparente, all'interno di una rete di reti in cui diversi produttori partecipino sullo stesso piano alla creazione di valore. Diventa quindi essenziale la promozione di una interoperabilità forte, sia a livello di semplici protocolli di comunicazione e immagazzinamento dei dati, sia a livello di algoritmi decisionali e responsabilità autonoma. Le macchine robotiche in grado di guidare da sé rappresentano un utile esempio concreto di sperimentazione tecnologica. Indicano anche chiaramente le complessità che la potenza dell'internet degli oggetti rappresenta non solo dal punto di vista della progettazione e della realizzazione, ma per le implicazioni che vanno oltre a quelle della semplice tecnologia. Che cosa succede se una macchina robotica è coinvolta in un incidente? Di chi sono le responsabilità tra passeggeri, produttori dell'hardware, produttori del software, eccetera? Le strutture emergenti della nostra civiltà, siano queste quelle con cui siamo già familiari, come le città, oppure quelle che le reti globali interconnesse stanno disegnando con i social network, oppure appunto l'internet degli oggetti, hanno una loro forte realtà autonoma, la cui natura solo debolmente dipende dalle strutture precedenti che le esprimono. C'è un reale collo di bottiglia nell'applicare le esperienze acquisite precedentemente da queste nuove realtà. Non si può sottostimare la difficoltà nella creazione di una cornice che possa abbracciare le opportunità rappresentate dallo sviluppo sano dell'internet degli oggetti, che massimizzi i benefici e annulli gli ostacoli al suo sviluppo. Lo sforzo di un dialogo aperto e costruttivo, dotato di grande creatività e immaginazione, è la sfida che non possiamo non raccogliere per raggiungere l'obiettivo di un mondo che possa fare leva sulla rete di reti di oggetti intelligenti, l'internet degli oggetti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di David Orban, Uomini, sensori e interfacce, dal numero di febbraio del mensile Formiche. Non sappiamo bene quante specie di hacker esistano oggi al mondo. Probabilmente 1 milione. Lo scrive Rob Dunn, biologo statunitense, in un articolo pubblicato sull'ultimo numero di National Geographic. Sappiamo però che la maggior parte di loro trova l'habitat naturale nei corpi degli animali di qualunque specie e non mancano naturalmente quelli che vivono nell'uomo, come gli acari del viso, che si annidano nei follicoli piliferi umani. Queste bestiole sono così piccole che una decina di loro potrebbe ballare su una capocchia di spillo, ma è più probabile che ballino sul vostro viso, cosa che fanno regolarmente di notte per accoppiarsi, salvo poi tornare nei vostri follicoli, dove restano durante il giorno per mangiare. In queste caverne, mamma acaro depone le sue uova a forma di acaro. Alla schiusa, i piccoli compiono diverse mute, in cui scartano lo scheletro esterno ed emergono leggermente più grandi. Raggiunte le dimensioni finali, la loro vita da adulti dura poche settimane. La morte arriva quando gli acari, essendo privi di ano, si riempiono di feci e muoiono. Poi si decompongono sulla vostra testa. Al momento conosciamo 2 specie di acaro del viso, di cui almeno una sembra essere presente su tutti gli esseri umani adulti. Gli acari vivono anche nella polvere, dove si sono fatti un nome mangiando i frammenti di pelle morta che ci lasciamo dietro ovunque. Alcuni tra gli acari più mostruosi vivono nel suolo, predatori armati di bocche che sembrano un arsenale medievale. Cacciano nei tunnel dei vermi e negli spazi tra i granelli di sabbia. Altri acari vivono nella volta arborea delle foreste pluviali, sulle foglie o nella terra che si accumula nei recessi e nelle fessure, dove i rami si intersecano con i tronchi o tra le foglie delle piante epifite. Vivono anche nel nostro cibo. Il gusto del formaggio francese Mimolette è dovuto allo scavare, mangiare, defecare e accoppiarsi degli acari. In conclusione, si può dire che gli acari modificano il mondo. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Rob Dunn, Super Acari, dal numero di febbraio di National Geographic. Lo scorso 12 febbraio si è verificato l'ennesimo episodio di mala sanità siciliana. Nicole, una bambina di Catania nata con gravi difficoltà respiratorie, muore durante il lungo trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Ragusa, dopo che tutti gli ospedali catanesi ne avevano rifiutato il ricovero, sostenendo di non avere posti liberi nei reparti di terapia intensiva. Forse un trasporto in elicottero avrebbe potuto salvarla, ma la convenzione prevede che questi mezzi non possono volare dopo le 10 di sera. Peccato che pochi giorni dopo si è saputo che il mese scorso Gaetano Marchese, il direttore del 118 di Palermo, che si era sentito male mentre si trovava in Sardegna, aveva chiesto e ottenuto di essere prelevato in elicottero, di notte, per essere trasportato nel capoluogo siciliano. Certo, anche lui temeva per la sua vita, ma resta sgradevolissima la sensazione di una disparità insopportabile rispetto a Nicole, commenta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Sulla stampa del 17 febbraio, Massimo Gramellini ironizza invece su quello che molti hanno interpretato come un abuso di potere e scrive: colpito da malore durante una vacanza ad Alghero, il dottor Gaetano Marchese ha rifiutato il ricovero nel vicino ospedale di Sassari e si è fatto dare uno strappo fino a Palermo dall'elicottero del 118 siciliano di cui è direttore. La notizia, orgogliosamente sbandierata dal 118 come prova di efficienza, è di sicuro una prova di attaccamento alla propria terra d'origine. Tra le lenzuola del nosocomio sardo, l'esimio Marchese sarebbe stato accudito meglio di un principe, ma è nel momento del bisogno che l'uomo sente risuonare con più prepotenza il richiamo delle radici. Ed è commovente che la comunità abbia secondato quel richiamo, mettendo a disposizione del Marchese in ambasce un velivolo del pronto soccorso diretto dal Marchese medesimo. Qualcuno ipotizza favoritismi e abusi di potere. Figuriamoci, la regola del Marchese varrà per tutti i cittadini. Ovunque nel mondo ci colga un malore, basterà chiamare il 118 siciliano per vedere stormi di elicotteri levarsi in volo, come in una scena di Apocalypse Now. Di giorno e di notte, come nel suo caso. Dite di no? Dite che l'altra settimana a Catania, quando si è trattato di farne decollare uno per porre in salvo una neonata, a levarsi in volo sono stati solo i consueti ostacoli burocratici? E temo abbiate ragione. Invece di vantarsi dell'efficienza che il 118 ha dispiegato soltanto per lui, forse il Marchese, del Grillo, farebbe meglio a provare un po' di imbarazzo, perché nell'aria si sente già uno straordinario giramento di eliche, quelle dei contribuenti. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Massimo Gramellini, Dove girano le eliche, dalla stampa del 17 febbraio.